Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 8 giugno, buongiorno di nuovo a tutte e tutti da Caterina Bombarda e Antonella Cortese. Siete su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk che parla tra il carcere e la città. Buongiorno anche a te, Antonella. Ciao Caterina, buongiorno. Allora, la nostra cronaca sociale oggi ci porta a parlare di un evento recente che è il Festival della Giustizia Penale, intitolato La Giustizia dell'Incontro, che si è tenuto dal 21 al 23 maggio scorso. Leggo l'articolo dalla rivista Il Dubbio, a firma di Valentina Stella, e il titolo è Agnese Moro, poi virgolettato, ho visto l'uomo dietro il mostro e ho scoperto un dolore simile al mio. Eh sì, perché ha partecipato a questo festival Agnese Moro, che è giornalista e figlia di Aldo Moro, il rappresentante della Democrazia Cristiana assassinato il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse, a colloquio con Grazia Grena, operatrice sociale ora e ex brigatista. In occasione di questo incontro, queste due donne si sono incontrate e hanno parlato, hanno raccontato le loro esperienze. Al centro di questa sessione, naturalmente virtuale perché siamo ancora in periodo di Covid, la giustizia riparativa è stata il tema dell'incontro stesso. Giustizia riparativa capace di cambiare profondamente la vita di vittime e responsabili della lotta armata. Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è la giustizia riparativa o giustizia rigenerativa dall'inglese? È un approccio consistente nel considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone. Quindi da questo consegue l'obbligo per l'autore di reato di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta. Quindi mira a porre rimedio al reato con l'intervento dei soggetti direttamente coinvolti, sia le vittime che gli autori di reato. E Agnese Moro dice che per lei è stata un'esperienza decisiva questa di aver incontrato l'autore del reato, cioè di chi ha assassinato il suo padre, perché ha significato guardare in faccia la realtà. Lei dice, nel viso dell'altro incontri qualcosa di concreto e reale, ti accorgi che sono persone come te e che il tempo è passato. Ti accorgi che erano qualcosa prima e che adesso sono altro e che il loro dolore è simile al tuo. Infatti Agnese Moro in più occasioni parla proprio di disarmo, ma proprio della persona che viene disarmata, condizione essenziale per cambiare la prospettiva e non soffermarsi al pregiudizio. Sì, infatti è interessante anche in questo articolo anche il gioco letterale noi-loro, anzi noi non c'è mai, c'è sempre loro riferito o alle vittime o ai colpevoli, e dice Agnese, loro, cioè gli autori di strage, si sono presentati a noi totalmente disarmati, persone che hanno scontato le loro pene e che hanno accettato questo faticoso e rischioso confronto con noi. Poi, come dicevi tu, Antonella, questo disarmarsi è l'inizio del lasciare andare via i pregiudizi. I sentimenti feroci che ti hanno cambiato per anni significa poter lasciare questi sentimenti che ti hanno chiuso come un insetto in una goccia d'ambra, dice lei. Rompere quella goccia d'ambra senza l'incontro con loro non è possibile. Sì, infatti tra quei loro di cui parla la Moro c'è Grazia Grena, ma c'è anche Franco Bonisoli, che tra l'altro è stato anche nostro ospite. C'è anche Franco Bonisoli, che è stato nostro ospite e che in una delle nostre rubriche ha raccontato questa esperienza di come lui ha vissuto la giustizia riparativa e fu uno tra i primi ad andare a trovare Agnese Moro dopo la sua scarcerazione, quando iniziò il percorso di giustizia riparativa. E c'è anche la Grazia Grena, che ha avuto un passato tra le fila delle Brigate Rosse, alla quale l'incontro con le vittime ha lasciato un incontro profondissimo. Infatti dice, sono rimasta spiazzata da questa richiesta, perché significava rimettere tutto in gioco. Dopo aver ricostruito una vita ridotta in cocci dopo i processi, dopo il carcere, lei si era chiesta, riuscirò a incontrare di nuovo quei volti? Riusciranno loro ad accettarmi? Aveva in qualche modo il timore di non essere ascoltata, di essere giudicata, e invece incontrandoli ha scoperto che è stato un incontro significativo per lei, che le ha permesso anche di affrontare in qualche modo il tema del perdono. E lei dice che questo tema è particolarmente delicato, forse non è proprio il caso di chiamarlo così, perdono vero e proprio, ma è una contaminazione un po' strana. Comunque resta qualcosa di unico. Lei dice: siamo riusciti a trovare una giusta prossimità. Ecco, forse sostituisce la parola perdono con quest'altra. È stato un percorso faticoso perché ognuno ha dovuto rinunciare a qualcosa di sé. Sembra forse un paradosso, ma gli unici che hanno dato ai colpevoli, agli autori di stragi, la possibilità di raccontarsi, sono stati proprio le vittime, i familiari delle vittime. E questo per i rei è stato un dono impagabile. Quindi tutte queste sessioni, per chi è interessato, si possono rivedere sul sito anche YouTube del festival, www.festivalgiustiziapenale.it. Prima di passare al brano che ti chiedo di presentare, Caterina, voglio soltanto dire che la giustizia riparativa è uno strumento molto efficace e molto importante che chiaramente non si sovrappone, non si sostituisce alla giustizia penale. Quindi questo secondo me va ricordato. Ma adesso chi ci presenti? Vi presento sempre Guns N' Roses, Paradise City. Rieccoci, bentornati sulle note dei Guns N' Roses, siete sempre su Liberi Dentro e Eduradio. E ora con Antonella Cortese, la mia collega da Parma, parliamo della nostra finestra sul mondo dal Ghana, per parlare di una donna che ha scritto un fumetto per parlare della disabilità. Sì, Caterina, si tratta di Farida Badway, che è una donna ghanese, in realtà nasce in Nigeria, a Lagos, che non si ferma davanti a nulla, perché nonostante la paralisi cerebrale diagnosticata dopo la nascita, è oggi ingegnere, scrittrice e creativa. Ha creato infatti un fumetto, e poi è diventato anche un cartone animato, che aiuta i bambini con la sua stessa disabilità a vederla più come una forza che come un impedimento. Certo, ci vuole coraggio, ci vuole fantasia, ci vogliono gli strumenti per poter affrontare questa realtà in questo modo, però Farida ce l'ha fatta, e tant'è che ha fondato anche una società che si chiama Logicifel, una società fintech in Ghana, e continua a scrivere e a creare fumetti per combattere un handicap di cui lei stessa soffre e dimostrare che le persone portatrici di disabilità hanno punti deboli e punti di forza come tutti gli altri. E quindi per farlo si è inventata un fumetto, una supereroina malata come lei di paralisi cerebrale, che non si ferma davanti a niente e le sue stampelle sono diventate i suoi superpoteri. Ho una curiosità, perché Farida è una donna che si è fatta, diciamo, si è cresciuta in una società, quella ghanese, ma anche un po' tutta l'Africa, dove in qualche modo possono solo i maschi. Come ha fatto? Hai centrato il punto, Caterina, perché nel continente africano le donne, pur essendo il vero motore della società in generale e soprattutto di quella familiare, non hanno ancora la considerazione che meritano, non hanno lo spazio che meritano, sono spesso vessate, messe ai margini, sono precluse alcune attività, quei lavori che sono tipicamente maschili e considerati solo per uomini. Insomma, la presunzione maschile regna ancora sovrana, ma Farida è riuscita dove molti uomini non ci hanno neanche provato. È riuscita a diventare ingegnere, e questo, diciamo, è un successo professionale, ma è riuscita anche a parlare di sé, della propria disabilità per aiutare il prossimo. La disabilità che è anche vissuta come un'onta. La disabilità non è accettata, in genere un po' in tutti i paesi africani, ma non solo, mi sento di aggiungere, anzi è vista come una maledizione che piomba cupa sulla famiglia. Per lei non è stata così, anche grazie appunto ai suoi genitori che l'hanno molto aiutata. Qual è quindi un po' la sua storia? Sì, allora il giorno della nascita a Farida viene subito diagnosticata una paralisi cerebrale. Come ti dicevo, è nata a Lagos, in Nigeria, però poi nei primi anni di vita è stata in diversi posti a vivere perché il padre lavorava fuori, quindi Dominica, Grenada e Regno Unito. Poi alla fine, all'età di 9 anni, si è trasferita in Ghana. Per la giovane Farida la famiglia è stata veramente, come ti dicevo, essenziale perché il padre riesce a capire il suo interesse per il computer. E da lì, dai 15 anni in poi, comincia la sua storia e la sua carriera. Munita di stampelle, Farida non si è fermata davanti a nulla e ha cominciato a inventarsi proprio questa eroina. Ha cercato di trovare il modo per dire a tutti, e in particolare ai bambini che soffrono della sua stessa disabilità, che possiedono una forza speciale, un superpotere. E in un'intervista, voglio citarla perché lei dice: le persone, con disabilità sono descritte come deboli. Ma abbiamo punti deboli e punti di forza come tutti gli altri, ed è ora che l'attenzione si sposta da ciò che non possiamo fare a ciò che possiamo fare. E Antonella ha scritto anche un libro, vero? Sì, ha scritto un libro che si chiama Definition of a Miracle, dove parla appunto della sua storia e delle leggi per la difesa dei diritti dei disabili che spesso rimangono solo sulla carta, e poi soprattutto ha fatto il fumetto in cui la protagonista è Karmaza, una guerriera. Eroina che combatte contro le ingiustizie, contro le differenze e che appunto ha dei superpoteri che sono le sue stampelle. Bella storia, forse anche il fumetto sarà stupendo, ma concentrandoci sulle nuove uscite discografiche, qual è il brano di oggi? Allora, restiamo su Nu Mokhtar con Tala Tannam. Thank you. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Oggi abbiamo una nuova ospite, Aurora Dall'Olio. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, Aurora, stiamo parlando di area di esecuzione penale interna, perché tu dal 2018 sei impegnata appunto in quest'area interna al carcere, che è un presidio lavoro gestito da CEFAL. Tu sei un'operatrice CEFAL a tutti gli effetti, che, come avete già ascoltato, avete già sentito l'intervista a Stefano Cuppini, l'obiettivo di CEFAL è quello di valorizzare le persone e promuoverne il benessere, agendo appunto sullo sviluppo delle loro potenzialità attraverso lo strumento della formazione e dell'educazione sociale, con particolare attenzione ai soggetti fragili, quindi anche alle persone detenute. E quindi questo presidio di CEFAL all'interno del carcere è già operativo ormai da 20 anni, e io ti chiedo un po' di raccontarci quello che state facendo. Certo. Allora, intanto vorrei fare una piccola specifica storica rispetto al lavoro che facciamo, nel senso che io sono arrivata sì nel 2018, però il CEFAL effettivamente è entrato in carcere tra il 2002 e il 2003, e diciamo che fino al 2015 svolgeva un lavoro di centro per l'impiego interno proprio al carcere attraverso dei bandi emanati dalle province. Dal 2017 invece, attraverso un cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo, lavoriamo su un vero e proprio presidio lavoro interno al carcere, che sostanzialmente fa 3 cose di massima. La prima è quella di fornire un servizio di orientamento al lavoro ai detenuti. La seconda è quella di organizzare dei corsi di formazione all'interno del carcere. E la terza è quella di permettere alle persone che possono beneficiare di misure alternative, come l'articolo 21, la semilibertà, di accedere a dei percorsi di tirocinio esterni al carcere. E questo tipo di attività ci porta a colloquiare all'anno 300-400 persone. Spesso ricorrenti non nel senso giuridico, ma nel senso che rivediamo spesso le persone. Io ho iniziato nel 2018 a lavorare all'interno del carcere, e assieme a me lavorano altre 2 operatrici e assieme al coordinatore Stefano Cuppini. E Aurora, che cosa ti ha portato a scegliere questa professione, e quindi di cosa ti occupi in particolare all'interno di CEFAL? Certo, dunque, cosa mi ha portato? C'è una storia dietro, nel senso che io nel 2006 stavo svolgendo un anno di scambio di studio all'estero, ed ero negli Stati Uniti. Il mio papà americano dell'epoca, mio papà ospitante, lavorava in un carcere lì dove ero ospitata, che diremo a custodia attenuata, e lui svolgeva un ruolo di educatore proprio, e grazie a lui io ho potuto svolgere un paio di incontri all'interno con le detenute, perché era un carcere femminile, in cui insomma ho parlato dell'Italia, della mia esperienza, di chi ero io, ed è stato veramente un momento molto intenso per me. Quindi poi sono tornata, mi è rimasto questo tarlo, sono arrivata a lavorare a CEFAL, lavorando prima ad altri progetti, e poi nel 2018 sono approdata alla casa circondariale. Quindi c'è una bella storia di un contatto prima. Sì. Sì, molto personale. E allora, Aurora, ci lanci una canzone a metà della nostra chiacchierata? Sì, e ci tengo anche a fare un piccolo cappello iniziale, nel senso che Certo. Questo è, credo, il primo, spero di non dire delle castronerie, ma credo che si tratti della prima esperienza di un album registrato interamente all'interno di un carcere di massima sicurezza, tra le altre cose, nel 1968 da Johnny Cash. Questa è Folsom Prison Blues. Ascoltiamolo, grazie. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. E rieccoci, bentornati sulle note di Johnny Cash, Folsom Prison Blues, lanciato da Aurora Dall'Olio. Qui con noi di CEFAL, l'area di esecuzione penale interna al carcere della Dozza, oggi stiamo parlando. E Aurora, come possono i detenuti accedere al vostro servizio? Conoscervi, come dicevi tu prima, incontrarvi, fare una chiacchierata e esporvi anche le loro problematiche, in particolare inerenti quindi anche al lavoro risocializzante. Certo, i detenuti possono contattarci direttamente tramite il solito modulo 393, la domandina, chiedendo appunto di parlare con il presidio lavoro. E oltre a questo possono farlo attraverso segnalazioni del personale di polizia, dell'area trattamentale, dell'area sanitaria, nel senso che noi abbiamo un indirizzo mail e un contatto interno al carcere che può essere appunto contattato laddove appunto ve ne sia la necessità. E per cui sì, siamo facilmente raggiungibili, diciamo. Ci sono, mi interessava sapere se ci sono delle domande frequenti che le persone detenute vi fanno quando vi incontrano. Sì, la domanda è quella: quando lavorerò? Io ho bisogno di lavorare. È una cosa che, se posso approfittare di questo spazio, voglio dire che stare tranquilli, nel senso che nel momento in cui una persona entra in carcere viene inserita automaticamente nella graduatoria del lavoro interno, perché il lavoro è proprio previsto dall'ordinamento penitenziario come strumento di trattamento e risocializzazione. Quello che noi come CEFAL facciamo è quello di cercare di dare un orientamento al lavoro interno, in particolare per le persone che all'interno del carcere devono rimanere per un periodo più o meno lungo, per provare a seguire le attitudini pregresse e le esperienze passate che queste persone possono avere, perché giustamente prima della loro esperienza detentiva c'è tutto un pezzo di vita, quindi una persona non è solo un detenuto, ma magari anche un cuoco, un saldatore, un allevatore di cani, è capitato, per cui ci teniamo insomma a dare spazio anche a questi elementi. Perfetto, ci tenevo a chiederti questo perché la prossima volta, quando di nuovo sarai con noi su Eduradio, parleremo dei tirocini, quindi dei tirocini anche formativi e di tutto ciò quindi che può essere un primo ingresso nel mondo del lavoro e magari favorire una crescita. E ti chiedo di lanciare l'ultimo brano e perché? Certo, l'ultimo brano è Redemption Song nella versione di Joe Strummer. È un brano che non ha molto a che fare con il carcere, a dire la verità, perché è un brano che parla della liberazione degli schiavi dalla Giamaica. Ma mi piaceva portarlo in questa sede perché è un brano che parla molto di libertà, in senso di coscienza delle proprie capacità e potenzialità, e soprattutto nel senso di una scelta di gestire la propria vita. E io credo che questo sia un bel messaggio da portare dentro e da dentro fuori al carcere. By the hand of the Almighty, we forward in this generation triumphantly. Won't you help